Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. In questo primo di giugno. Evviva, evviva. Alle 8.18.47, quasi con qualche secondo di anticipo rispetto al solito. Che facciamo? Andiamo un promo allora. Così ci sentiamo tra 30 secondi. Fate presto. No. Dai. Allora, oggi, da stamattina che mi ricordo, adesso dirò il santo, però una volta mi ricordo che da piccolo chiesi a mia madre: mi spieghi cosa sono le elezioni? E lei? Quella roba che tra il dire e il fare c'è sempre in mezzo una busta da dare. Non so da così, dove l'aveva letto, così, ma mi è rimasto impresso nella testa. Naturalmente, lungi da me essere populista, però buon senso la mamma. Allora, torniamo ai santi. Oggi San Giustino, filosofo dei tempi dell'imperatore Antonino Pio, e Antonino Pio lo condusse presto a riflettere con la testa tagliata. San Zenone, poi un po' di santi con nome molto diffuso: Procolo, Vistano, Caprasio, Cantone, Ammone, Zenone, Cantone. L'hanno già fatto santo? No, però appunto anch'io volevo vedere se avevi. No, l'hanno fatto martire. Quindi gli hanno tagliato la testa all'epoca. Perché Cantone va bene per tutte le soluzioni. Se questa volta, anche perché poi c'è un Cantone, ma è nella stessa genia, perché le hanno tagliato la testa insieme di Caritone e compagni. Ah. Quindi insomma, si chiamavano tutti in maniera molto simile. Comunque, rifletteci, caro commissario all'anticorruzione. Ingene, Teofilo, Zenone, Ischilione e Necone. È davvero. Ione, no, Ione. No, no, era il giorno del Lione. Oggi è nata la CNN nel 1980 ed è anche un giorno che fa sperare molto Bersani, perché nel 1958 per decreto De Gaulle se n'è andato a Colombier des Aiglés e invece dissero torna e lui torna. ogni volta Bersani dice spero che invece non, no. Ma solo il 1980 la CNN, pensavo fosse un po' più 180. Ma perché la storia c'è, la vedi? In realtà sembra pochi anni, io avrei detto, non lo so, almeno questa rivoluzione mondiale, almeno 60, e invece, così invece, 1980. Nel 1980. Oggi è festa internazionale dei bambini. Va bene. È anche la festa di mia moglie, il suo compleanno. Evviva. E così abbiamo fatto carrambata. Ebbene sì. Per le feste importanti alla fine le teniamo, va bene. Esatto. 800 24 00 24, cari ascoltatori. Allora, ieri abbiamo parlato di questi 80 euro. Di chi li dovrà restituire. E tanti, uno su otto che li deve restituire. Esatto, 1.400.000 italiani che li dovranno restituire, tra poco ne parliamo. Visto che il Fatto Quotidiano annuncia ai comitati caccia agli 80 euro. Sì, Alessandro Robecchi fa questo pezzo un po' come scrive lui, con la penna spesso intrisa nell'ironia, nella satira. Alessandro Robecchi, ecco i comitati, ricaccia gli 80 euro. Abbiamo scherzato. No, so che non la pensa così Filippo Taddei, che è il responsabile economico del Partito Democratico. Buongiorno Taddei e ben trovato. Non c'è, è caduta la linea. Adesso lo recuperiamo. Abbiamo citato il Fatto Quotidiano, è caduta la linea. No, ma adesso lo recuperiamo. C'è qualcos'altro, Oscar, che ti ha colpito dai giornali? Sì, che l'Inter si è venduto ai cinesi prima del vostro Milan. E cosa fatta? Il derby sarà solo voi italiani che andrete a San Siro, visto che pare che finisca il cinema, avrete dei traduttori, ma dovrete pagarli, perché l'unica lingua sarà assolutamente il mandarino per commentare la diretta. Esatto. Si stanno attrezzando i telecronisti, il nostro Pierluigi Pardo, quindi tutto il cibo da sport solo cinese e sarà. Comunque è un grande avvenimento, secondo me. Tu dici il mondo cambia a volte, grandissimo avvenimento, cioè lo so, magari non è solo una questione di appassionarsi di calcio, cioè le due squadre tra le due più importanti dopo la Juventus, ma poi dopo la Juventus le più titolate nel mondo cinesi? No, come più titolate nel mondo? Noi siamo più titolate, cioè in Italia va bene, ma vabbè, ma non entriamo in questa diatriba. Comunque, insomma, effettivamente Inter e Milan, l'Inter quasi sicuramente, il Milan forse, in mano ai cinesi. sono mondi. Sono bandiere che si ammainano e altre che si invece si mettono sul pennone. Chi l'avrebbe mai detto? No, è che non l'ho mai detto. Io lo dicevo da anni di prendere sul serio sta globalizzazione. Chi l'avrebbe mai detto? Poi mi ha colpito molto. Merckx indagato per tangenti su vendita di biciclette alla polizia. Sembra una cosa. Sembra una barzelletta. Una barzelletta. C'è Merckx e le biciclette alla polizia. Capisci? Il grande campione di ciclismo, eccetera, eccetera, che per poche migliaia di euro pare su una partita di biciclette alla polizia belga ci ha messo lo zampino. E no, l'uomo, come vedi, l'uomo è una tentazione dovunque. Però, insomma, abbiamo recuperato. Come dicevano ad alto gradimento, l'uomo è una bestia. È una bestia. Abbiamo recuperato Filippo Taddei. Buongiorno, Filippo Taddei, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ovviamente scherzano al Fatto Quotidiano quando scrivono con Alessandro Robecchi che nasceranno i comitati ricaccia gli 80 euro. Insomma, la verità è che però ci sono degli italiani un po' arrabbiati perché hanno ricevuto gli 80 euro, poi hanno scoperto che non ne hanno più diritto e quindi dovranno restituirli. Se si arrabbiassero tutti quelli che prendono qualcosa per cui non hanno diritto, penso che non andremo molto lontano. La situazione in realtà è molto semplice. Gli 80 euro sono sono un supplemento, sono una detrazione aggiuntiva per il lavoro dipendente. Il nostro sistema fiscale in realtà ha deciso molti anni fa, molti, prima di questo governo e quelli che l'hanno preceduto, di fare in modo che i lavoratori autonomi potessero fondamentalmente dedurre le proprie spese sulla base di quello che sono, e per i lavoratori dipendenti c'è una detrazione invece che è forfettaria. Uh-huh. Quella detrazione cala mano a mano che cresce il tuo reddito. Il governo Renzi dal 2014 arriva e dice: benissimo, sapete qual è la novità? Questa detrazione forfettaria che sono 8.000 euro per i lavoratori dipendenti e poi calante viene aumentata di 80 euro al mese. Sì. E naturalmente questi 80 euro al mese valgono per la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti, che però non sono il 100%. La stragrande maggioranza vuol dire tutti quei lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 26.000 euro lordi. Esatto. Per quelli che guadagnano di più, quella detrazione aggiuntiva non sa c'è. Sa cosa perché... però, professor Taddei, la questione si discuteva anche ieri con Oscar, e l'obiezione sulla quale io ho meditato molto e che Oscar ha fatto è questa: non è stato sbagliato forse il metodo in cui è stato dato all'inizio questi 80 euro, cioè darli prima e poi uno scopre che magari ha un reddito che si accumula e arriva a 26.500 euro lordi e deve restituirli. Forse era meglio darli alla fine invece che... Cioè, l'osservazione è... prendendo un po' più di tempo, si poteva insieme, ma lo dico anche per il governo, non solo evitare l'effetto adesso di un italiano su 8 e magari quei 380.000 incapienti, che secondo me proprio anche proprio come clima generale del paese, non solo per l'effetto politico poteva essere, ma anche perché con un po' più di tempo si trovava il metodo per far rientrare in contabilità come davvero meno tasse, evitandosi tutta la polemica che animiamo inutilmente da due anni sul governo che giustamente dice no, sono meno tasse e invece che criteri di contabilità sono più spese. Un po' di tempo in più non si poteva evitare. Sono due osservazioni diverse che secondo me sono molto importanti. La prima è questa: noi già oggi qualunque detrazione che diamo ai lavoratori dipendenti, ma da quella insomma fissa, quella generale, quella per i figli a carico, per i coniugi a carico, tutte quelle detrazioni che sono cifre annuali, certo, vengono spalmate nelle buste paga di tutti i dipendenti. Vale per tutte le detrazioni e sarebbe stato strano, mi permetta, non farlo, cioè fare un'eccezione specifica per gli 80 euro che non facevano altro che aumentare quella detrazione, cioè ridurre le tasse a carico dei lavoratori dipendenti. Per questo è stato fatto su base mensile. Prendiamo pure il caso peggiore. Il caso peggiore qual è? Il caso del lavoratore che avesse che ha un reddito insperatamente superiore rispetto a quello che si aspettava, è superiore ai 26.000 euro. A quel lavoratore che cosa è che abbiamo fatto? Gli abbiamo in realtà dato 80 euro di detrazione che non gli spettava, sì, cioè gli ha dato in realtà il datore di lavoro sulla base di una valutazione errata. Lui se le sarà spese, infatti. Ma guardi, vediamo che cosa ne avrà fatto. Sì, però aspetti, quelli sono 80 euro di tasse che quel lavoratore doveva, e in conseguenza il fatto che non ha diritto a quelle tasse in meno perché un lavoratore che guadagna di più le deve restituire. Ma capisce l'effetto? Aspetti un momento, perché qui siamo un po' al paradosso secondo me del dibattito. Io dico a un contribuente: anziché pagarmi queste tasse ti levo 80 euro, in realtà tu chiedi che ti vengano levati 80 euro, tu non avevi diritto. Il risultato di questa richiesta a cui tu non avevi diritto, tu devi pagare, anziché 80 euro di tasse in più al mese, le paghi tutte a fine anno. Cioè paghi le tasse che tu dovevi, più tardi. Ora, pagare le tasse più tardi, secondo me, questo magari sono io che ragiono strano, pagare più tardi quello che devo sì. è un vantaggio, non sì, è uno però, vantaggio. Oppure usando il paradosso, gli è stato promesso, ti diamo una cosa, e poi peraltro scusi Taddei, quando un ascoltatore ieri ci ha chiamato, ha detto quando ci chiedono la restituzione non ce li chiedono 80 euro al mese, una tantum, tutto insieme. Questo no, c'è ma, anche, beh, cioè, guardi, questo succede così. Insomma, non è che restituiscono 80 euro al mese, li devono dare tutti, no? Sì, no, ma guardi, ma mettiamola così, quegli 80 euro non dovevano averli. Non dovevano averli. Se poi vogliamo, perché quel lavoratore guadagnava di più sì, dei 20.000 lordi, non era mica cattivo. E gli incapienti che addirittura quelli... Poi però c'è un effetto in più, che questo è escluso dal dibattito, che è il secondo tema a cui faceva riferimento, che sì. è collegato a quanto faceva riferimento sì. l'osservatore sì. Giannino. Noi stiamo considerando quei lavoratori che, per fortuna, guadagnano di più di quello che ci si aspettavano, che guadagnano più di 6.000 euro, ma non stiamo considerando quei lavoratori in fondo alla distribuzione che avevano un reddito atteso inferiore agli 8.000 euro lordi, ma che si trovano a guadagnare di più, che dovrebbero pagare delle tasse in conseguenza di questo, del fatto che superano gli 8.000 euro, cioè sono più fiscalmente incapienti, cioè hanno capacità fiscale, cioè dovrebbero pagare delle tasse, e in virtù di 80 euro non pagano tasse. Ora, io quello che trovo sorprendente è che noi parliamo di quelli che sono sbagliati, hanno chiesto il bonus e adesso devono restituire, non parliamo di quelli che anche che guadagnando più di 8.000 euro avrebbero dovuto pagare delle tasse, ma non li pagano perché il bonus, aumentando la detrazione per il lavoro dipendente, li ha resi fiscalmente incapienti più a lungo, cioè li fa pagare meno tasse. Oscar, qua si può vedere da due facce, insomma, secondo Taddei. Poi arriviamo all'ultimo punto, secondo me, che era quello a cui io tengo particolarmente, e Oscar faceva molto bene. Che noi abbiamo avuto che il bonus 80 euro viene contabilizzato come spesa aggiuntiva e non per quello che è, cioè una riduzione delle tasse, aumentando la detrazione tu fai pagare meno tasse ai lavoratori, quelle sono meno tasse, punto, e lì finisce, però sono contabilizzate altrimenti, e quindi infatti se voi guardate il documento di economia e finanza, qualunque documento ufficiale, c'è la pressione fiscale al lordo degli 80 euro, cioè senza considerarla, e quella propriamente definita che è al netto degli 80 euro, in cui si vede proprio questa riduzione molto molto forte, la prima volta che scendiamo sotto il 43%, capisco che Oscar vorrebbe qualcosa di più e tutti voi vorrebbero qualcosa di più, però è così. Però c'è. Ora questo è un difetto tecnico che non deriva dal fatto di aver pagato gli 80 euro su base mensile, attenzione, questo deriva dal fatto che per dare un senso visibile di riduzione fiscale, che poi, perché poi se no poi c'era una, figuratevi, c'è la polemica sul nulla, adesso figuratevi cosa sarebbe successo altrimenti, si decise di rendere questa detrazione aggiuntiva degli 80 euro, questi 80 euro di tasse in meno, visibili in busta paga. Nel momento in cui sono visibili in busta paga, quello che succede è che questa visibilità, che era proprio data come segnale di chiarezza, di trasparenza a favore del contribuente, in realtà ha portato a una categorizzazione in contabilità nazionale come spesa aggiuntiva. Ma sarà paradossale, però, Taddei, il punto è che l'accusa è proprio la visibilità ricercata a fini politici elettorali, cioè siamo sempre, è il gatto che si morde la coda, insomma. Comunque sta di fatto che secondo me l'entità del numero, che abbiamo saputo, abbiamo dovuto insistere molto per saperla, la cifra di coloro che poi devono restituire, per ragioni tecniche abbiamo spiegato che sono queste, è inutile girarci intorno, secondo me aggiunge un elemento imprevisto, perché uno su otto è come avessero chiesto a me, che ho qualche presunzione di sapere i numeri, però uno su otto è un numero abbastanza elevato, o ve lo aspettavate Taddei? Se lei va a vedere la relazione tecnica che c'è quando facciamo gli 80 euro, la platea coinvolta era poco inferiore ai 10 milioni di contribuenti italiani, che sono la stragrande i dipendenti italiani sono circa 16 milioni, quindi capite, parliamo del 60% dei lavoratori dipendenti italiani. E quando gli 80 euro furono, e se voi guardate il comunicato del MES, parla di 11, qualcosa milioni di contribuenti. 11,4, sì. Esattamente. Ora, tra questi ce ne sono 700.000 che hanno chiesto il bonus e non avevano diritto a nulla, cioè hanno proprio sbagliato, avevano redditi superiori ai 26.000 euro. Ci sono casi anche un po' surreali. Gente che prendeva di 35.000, 40.000 euro e poi aveva il bonus. Però anche errori di 730 precompilato, per esempio, in questo caso. E in questo caso... Ah, guardi, qualche centinaio, ci sono stati almeno 19 milioni di precompilate, qualche centinaio di persone che hanno fatto gli errori, io non gliele metto proprio in conto sicuro, ma parliamo di errore statistico, un'operazione gigantesca che coinvolge 19 milioni di contribuenti, rendiamoci conto. Poi però c'è un altro aspetto, poi c'è l'altra parte, che sono 600.000 lavoratori italiani che sono, hanno raggiunto un reddito tra i 24.000 e i 26.000 lordi. Sì. Lì in mezzo il bonus cala, cioè quello che succede è che non è dei 80 euro pieni ma comincia a calare. Tra questi 600.000 non è che tutti devono restituire. No, è anche parziale. Alcuni devono restituire 2 euro, 3 euro, cioè parliamo veramente di cifre limitate. Ma dico questo, quindi vi aspettavate, cioè i numeri sono in linea della restituzione? Come le ho detto, se lei va a levare e quelli che fanno la soluzione totale e quelli della soluzione parziale di un bonus a cui non avevano diritto, mi faccio sottolineare che sono circa un milione di contribuenti tra i parziali e i totali, arriviamo ai 10 milioni che sono esattamente 10 milioni che lei trova nella relazione tecnica. Quindi io le dico, quando ho visto 11 milioni che beneficiavano di 80 euro, mi sono detto, ma cos'è che qualcosa è andato storto? In realtà non è andato storto nulla, era esattamente perché... Sapevate era che quel milione e quattro è il numero di coloro che hanno avuto beneficio da troppo. C'era un milione e quattro che poi senza avere diritto. Le ha prese senza avere diritto. Avete il braccio corto sempre. C'è poco sto scherzando. Sulle tasse, come sta, noi pensiamo solo di aver iniziato e non di aver concluso. Quindi andremo avanti a continuare a ridurre le tasse, anche perché insomma per il lavoro è una cosa prioritaria. Il tema però centrale è questo. Guarda, io mi rendo conto che il bonus degli 80 euro non è entrato nella riduzione della pressione fiscale per la ragione tecnica che discutevamo prima, però avrei scelto di metterlo in busta paga e renderlo trasparente di fronte a dei contribuenti che sono quelli italiani, cittadini, lavoratori italiani che sono sfiduciati dal fatto che non c'è mai una riduzione fiscale che effettivamente vada fino in fondo. Ma perché poi l'avete aumentata su altro. Però attenzione Giannino, qui abbiamo una riduzione complessiva della pressione fiscale, quindi io non nego che ci siano alcune componenti delle tasse che siano cresciute, ma appunto il numero che noi abbiamo dato è che per la prima volta la pressione fiscale scende sotto il 43%. No, insomma, voi totale cala. Rivendicate il fatto che anche la scelta di come ve l'ho fatto, averlo messo in busta paga, è una scelta che è stata giusta. No, però si fermi Taddei perché dobbiamo andare poi in pubblicità. Ma lei si iscrive a uno di questi comitati di caccia agli 80. Esatto, Taddei. Per mia fortuna faccio parte dei contribuenti che non guadagnano molto di più di quelli dei 26.000 euro. Poi, giusto per dare un senso dei numeri, a 26.000 euro lordi, cioè di reddito imponibile, fino a 26.000 euro lordi, noi coinvolgiamo l'80% dei lavoratori dipendenti italiani, cioè 4 dipendenti e lavoratori dipendenti italiani su 5. Che farebbe anche questo, dovrebbe fare pensare sul livello anche degli stipendi. Insomma, fa concretamente, dà una bella fotografia della piramide vera dei redditi. Esatto. Intanto la ringraziamo, Filippo Taddei, grazie, responsabile economico del Partito Democratico. Andiamo in pubblicità, poi riprenderemo, c'è un ascoltatore, poi avremo l'avvocato Buongiorno, perché ieri ci ha colpito, no, Oscar, questa storia. Ci ha dato un bel buongiorno, sì, sul con questa idea del femminicidio, di aumentare il gastolo per il femminicidio. Però guarda, c'è un ascoltatore che dopo la pubblicità lo recuperiamo subito, che parla, credo, ci dicono, su Visco, l'intervento ieri. C'è stata la considerazione annuale, questa Oscar, autoassoluzione scandalosa della Banca d'Italia. Preparati, ma ti vedo già caldo tra poco. Eccoci, caro Oscar. C'è Dino che ci chiama da Bergamo. Eccoci Dino, buongiorno. Buongiorno carissimi, siete i miei compagni di viaggio mattutini. Bene. No, volevo fare qualche una semplice considerazione sulle dichiarazioni di del nostro governatore Visco di ieri, perché sembra che sia stato sulla luna fino appunto 5 minuti prima, quando invita le banche a ridurre costi, sportelli. Ma lo sa che è dal 2007-2008 che è iniziata la crisi. Non ha potuto fare la raccomandazione prima perché forse le banche avrebbero dovuto svalutare tutti gli avviamenti degli sportelli che hanno in corpo. E seconda considerazione brevissima, se voi andate sul sito di Veneto Banca, ancora oggi ci sono le istruzioni per affrancare il valore dei titoli e finire il capital gain. Bravo. È davvero una presa per il esatto. E poi ci sono in linea anche tutte le perizie che fino al 2014 valutavano. Bravo. Quindi oltre un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, io sono tra l'altro coinvolto perché sì. avevo qualche infatti titolo. mi sembra abbastanza interessato, perché, anche no? Perché io sono informato del vecchio Banco di Bergamo, che poi è stato, incorporato. Non sono uscito per tempo. Dino, lei Dino. Che ha seguito vedrà quanti accademici, professoroni hanno firmato e comprovato quelle perizie e quei valori. Tutta gente che sta zitta sulle crisi bancarie, perché le banche le hanno locupletati di soldi a molti cattedratici. Per questo loro non criticano mai nulla, capisce? Ecco, è una cosa che a me brucia molto vedere molti ottimi tecnici italiani che sulla materia delle banche, per aver troppo, per così dire, generosamente attinto alle offerte di posti in CDA eccetera eccetera, sta zitta. Quanto poi a giudizio che altro sul governatore, sono totalmente d'accordo, e oggi mi vergogno di fare giornalista, perché la stragrande maggioranza, poche eccezioni, dell'informazione italiana fa finta di non aver visto che quello di ieri del governatore è stata una clamorosa autoassoluzione, senza neanche citare per esempio che in questi pochi giorni più di 200.000 azionisti veneti hanno portato a casa tra Vicenza e Veneto Banca un danno dell'azzeramento di 11 miliardi e mezzo di proprie risorse, e facciamo finta di niente perché la Banca d'Italia dice di non avere nessuna responsabilità. Quindi io la penso come lei, ma siamo in minoranza, perché il sistema imprenditoriale editoriale del nostro paese ritiene che sia meglio tenere tutto sotto qualche chilometro di polvere. Allora, caro Oscar, ieri ci ha molto colpito l'intervista che l'avvocato Giulia Buongiorno ha rilasciato al Giorno, e è con noi, avvocato Buongiorno, eccoci qua, benvenuta e ben ritrovata. Grazie. Ci ha colpito, ovviamente parliamo della vicenda terribile di cronaca, l'ennesimo omicidio, l'ennesimo. Ma ci ha colpito anche perché lei è una tecnica del diritto che ammiriamo molto, perché sappiamo che è molto ferrata, quindi ci ha colpito proprio perché lei ha ad avanzare la proposta che ha fatto ieri. No? Ovviamente parliamo dell'omicidio di Sara Di Pietrantonio da parte del suo ex fidanzato. Oggi sui giornali ci sono i particolari, si sapeva di una persona molto possessiva e gelosa, la madre della vittima dice chiamava ogni 10 minuti quando non era con lei. Lei aveva confessato l'amica e qui finisce male. Esatto, però ecco, avvocato Buongiorno, lei ha detto ci vorrebbe un aggravante. L'aggravante che porti all'ergastolo, e quello che più ci ha colpito soprattutto a dire perché dopo secoli di diritto pensato al maschile serve ora una tutela spudoratamente femminile. È così che si ribilancia, avvocato? Allora, servono molte cose. La prima cosa che servirebbe è dedicare molta attenzione a questo fenomeno, che normalmente va in prima pagina quando capita il caso, poi a pagina 20 vedrà che domani non ci saranno più articoli e quindi Sara diventerà un numero. Io da anni studio questo fenomeno, ho esaminato tutta la legislazione nei secoli, tutta la legislazione al maschile. Abbiamo avuto una serie di leggi che hanno sempre, perché ovviamente c'era una cultura diversa da quella attuale, valorizzato non solo le donne, ma addirittura c'era una sorta di simpatia, gli uomini, ma c'era una sorta di simpatia del legislatore per i crimini commessi per gli uomini, commessi dagli uomini. Le faccio un esempio: il delitto d'onore, abrogato soltanto nel 1981, aveva una pena esattamente identica alla pena che si applica oggi a chi incendia un motorino, da 3 a 7 anni, cioè un buffetto su una guancia. Lo ius corrigendi era il diritto dell'uomo di correggere la donna picchiandola. Ora, io potrei farle, tra l'altro appunto in un libro che ho fatto una sorta di elenco di tutti questi reati un po' particolari, e cioè che venivano considerati con pieni lievi se commessi dagli uomini. No, ma sono reati che hanno espresso la plurisecolare prevalenza di genere nell'impostazione delle tutele del diritto. È così. E accanto a questo, non c'è bisogno di fare un elenco, ci sono tutte le leggi che prima escludevano, lei lo sa che la prima donna avvocato fu cancellata dall'albo, certo. Non si poteva studiare, eccetera. Ora, tutto questo non è che non ha senso, tutto questo crea tuttora, anche se siamo nel 2016, io non dico in tutti gli uomini, perché ci sono veramente uomini illuminati, però in una grande categoria di uomini, il convincimento che la donna tuttora può essere oggetto di possesso, di proprietà, che è un po' un essere inferiore. Quindi è mia. Se non è più mia, io non solo non accetto la sua autonomia, ma come distruggo un oggetto, do fuoco alla donna. perché non è raro il fatto che l'uomo, quando comunque viene lasciato, la distrugge. Però avvocato, allora, la riflessione facciamo ieri con Alessandro Milan è questo, proprio perché viene da lei, e di lei abbiamo molta stima, la questione che lei ha descritto è una questione storica assolutamente fondata, incontrovertibile, durata fino all'altro ieri nelle norme, ma che resta nella testa come riflesso culturale di moltissimi. Allora, però, un problema che resta nella testa, cioè culturale, antropologico-culturale, mettiamola così, si cambia con la cultura, la scuola, il bombardamento della informazione, un modo oppure diverso di educare i figli, di metterli insieme e riflettere su queste questioni, ma si cura anche con la moltiplicazione delle fattispecie, cioè da una come lei io non mi aspetto l'inseguimento della moltiplicazione delle fattispecie. Sicuro in due modi, con... Siccome abbiamo avuto delle leggi, come ci siamo detti, a questo punto delle leggi non uguali per uomini e donne, spudoratamente io dico a favore delle donne, si dirà ma come? È qualcosa quasi di ingiusto valorizzare la donna in questo settore? Sì, perché veniamo da secoli in cui era il contrario, una sorta di risarcimento che consenta... Ma comunque, se non erano giuste quelle... No, ma questo è perché serve per riequilibrare, perché l'articolo 3 dice a condizioni uguali, leggi uguali, a condizioni diverse, si possono fare cose diverse. Cioè, sembra, però non è avvocato, non è avvocato che a un torto storico, culturale, si risponde con un altro torto. No, questo ma, è... non è, ma non è, guardi, non è vendetta, non è vendetta, no, è questo riequilibrio. No. Le faccio un esempio di una legge che tutti contestate, credo anche voi, perché di tanto in tanto vi seguo, e che però nei fatti io ho visto che ha dato dei risultati positivi e che secondo me però deve durare nel tempo e poi deve esaurirsi. La famosa legge che consente coattivamente alle donne di avere accesso nei CDA, sì, delle, sì, società quotate, sì, eccetera, eccetera. Io faccio sempre l'esempio mio personale, perché poi fare esempi di altri non ha grande senso. Io sono stata, e lo dico contro il mio interesse, sono stata chiamata in CDA della Juventus perché a un certo punto ovviamente Andrea Agnelli doveva prendere delle donne e lui ha sempre detto, io alla fine non mi immaginavo che una società di calcio, perché il calcio no, è tipicamente maschile, potesse avere al suo interno le donne. Poi ha sperimentato e poi si è trovato bene. Allora questa legge è come se avesse costretto degli uomini quantomeno a dare un'opportunità alle donne. Anch'io, che sono contrario di solito, penso in relazione a questo che in Italia, purché io le chiamo le sunset law, si chiamano così, lo sanno, devo spiegarlo a lei, però che chi è in ascolto, devono essere a tempo, cioè devono avere un effetto di scardinamento poi automaticamente, come il tramonto, andare via. Perché altrimenti poi invece veramente... Allora tutto questo dovrebbe essere fatto, che le posso dire, per 7 anni di seguito, perché sono leggi veramente che non hanno senso se lei ci pensa, perché io devo mettere delle donne solo per questo riequilibrio. Poi a un certo punto stop. E io farei di queste leggi, guardi, in tutto. Ma questo riguarderebbe quindi anche l'aggravante per il femminicidio, una cosa a tempo per vedere per il... risultati alla mano, se poi ottiene l'effetto di diminuire. Ok, l'aggravante per il femminicidio è una proposta di legge che io ho depositato l'ultimo anno che ne facevo parte del Parlamento, perché l'omicidio ha una serie di aggravanti, ad esempio uccidere per motivi abietti o futili, che poi il giudice decide se applicare o meno. Ci sono già le aggravanti per... Ci sono una serie di aggravanti di carattere generico, diciamo, non specifico. Allora, tra gli interventi a ventaglio, quelli che le ho detto sono sulle leggi in generale, che io farei anche sul codice penale, io reputo che è particolarmente grave, così come uccidere per motivi abietti o futili, dare fuoco a una donna solo perché donna e va via da me. E per me è un aggravante, non è un omicidio qualsiasi. Perché perché dovrebbe esserci la premeditazione, così dicono, da 7 giorni ha pensato, cioè ha portato l'alcol. Sì, sì. Voglio in dire. Questi casi la danno, però ovviamente non sempre si riesce a dimostrare, però, perché qui credo di sì. Un'altra cosa che ha colpito è questa, avvocato, buongiorno, perché lei ha detto ci vorrebbe proprio la deterrenza evidente da comunicare con una grande campagna mediatica, che vuol dire, la traduciamo, se tu fai questo tipo di reato, attento perché c'è l'ergastolo. Del resto c'è la questione culturale, questo secondo me è una grande componente di utilità, però, a farlo. Però è statistico ed è accertato che laddove c'è, e io faccio sempre l'esempio degli Stati Uniti, la pena di morte, negli stati in cui si dice guarda che c'è la pena di morte, questo statisticamente è provato da tutti i centri che studiano la pena capitale, non ha un effetto deterrente sul crimine, avvocato? Allora, la sanzione, la pena, per come nel nostro ordinamento giuridico italiano, le cui basi sono in quello tedesco, la pena ha due funzioni: prevenzione generale, cioè evitare, evitare che il reato sia commesso nuovo, e prevenzione proprio specifica, perché la pena è considerata un deterrente. è pensata anche come deterrente. Io vorrei che quest'uomo che sta per uccidere comunque una donna solo per questa ragione non fosse considerato un pazzo. Secondo me sono persone lucide, e quando si è lucidi uno prende in considerazione varie cose. Allora, se io prendo in considerazione l'ipotesi che se mi prendono, poi sa, mi faccio l'abbreviato, poi sa, riesco a avere l'attenuante, mi faccio al massimo un po' di tempo in carcere e poi riesco, non lo so, lo metto nel conto. E questo glielo dico anche per un'esperienza ormai di 25 anni di professione, in questo ambito, che poi qualcuno magari quando va a trovare degli avvocati dice anche di fare dei calcoli di pena. Allora io vorrei che quando sono questi delitti i calcoli sono, ma qui annullato. Se mi va male non esco. Cioè, e secondo lei questo può fungere da deterrente? No. Da solo ecco. Serve a niente. È uno degli elementi, insomma, uno degli elementi, insomma, quello culturale. Se si chiede intorno al tavolo e si dice vogliamo trovare 10 cose da fare, sì, tra le quali, ad esempio, anche imporre alle scuole un tipo di educazione di genere. Esatto. Il bambino che deve giocare può giocare con giocattoli femminili. Io sono molto d'accordo su una reimpostazione, cioè per recuperare il gap nella testa di troppo diffuso ancora tra molti maschi italiani su Alessandro, diciamolo, la questione è proprio, si comincia dai bambini. Io sono fondamentalmente convinto di questo. No, guardi, io le faccio un esempio. C'è poco da fare e lo vedo ancora, perché tanto le cose, le primazie di genere dopo secoli e secoli sono così incardinate nel nostro particolare modello culturale latino eccetera eccetera, che rispuntano dove meno te lo aspetti, tanto che molti non ci fanno neanche caso. Questo è quello che temo io. E anche nella suddivisione dei ruoli a casa, che sembra come al solito una cosa minore, ma non lo è, perché molte donne poi hanno tempo inferiore rispetto agli uomini per lavorare o fare altre cose o fare carriera, perché tutto ciò che riguarda la casa incombe sulle donne. Quando ne parli dice, ma questo è il problema? Sì, il problema è anche il tempo, il problema è la considerazione del tempo, cioè va tutto reimpostato, però è come se questi temi fossero considerati un po' marginali e minori. Sì. E questo sì. Avvocato Boggiorno, noi nel ringraziarla, spero che nella sua cooptazione il CDA della Juve lei almeno sia tifosa della Juve. Io sono sempre stata tifosa, perché essendo palermitana, quasi tutti i palermitani cercavano una squadra in Serie A quando eravamo in Serie A. Del resto, anche le donne più straordinarie e perfette che uno ha in testa come sogno hanno un difetto. Ma da questa malattia si guarisce facilmente, credo. Difficile. Si guarisce facilmente. La ringraziamo ovviamente, Giulia, buongiorno, grazie. Avvocato penalista, molto molto nota. C'è chi? Onorato ci chiama da Latina. Buongiorno Onorato. Buongiorno. Eccoci. Mi dispiace che è andata via l'avvocatessa, che è la persona più idonea, più adatta, diciamo, anche a recepire queste osservazioni. Io faccio il medico legale da molti anni. Anni fa ho fatto una consulenza per conto del giudice in tema di stalking. Era un procedimento civile. È chiaro che in questo percorso, diciamo, valutativo, mi sono sorte anche delle perplessità. Per quanto concerne il reato penale di stalking, questo è regolamentato dal 612 bis, che prevede una detenzione da 6 mesi a 4 anni. Però per la fattispecie di questo tipo di lesione, a mio modesto avviso, dovrebbe ricadere in quella di lesioni personali dolose, che è, prevista dall'articolo 582. Però lei lo sa che lo stalking mette a fuoco come fattispecie dei comportamenti che non configurano, possono affatto non configurare la lesione grave, dolosa. Quindi la distinzione di pena nel codice ha senso, secondo me. Cioè lo stalking può essere fatto solo anche con minacce telefoniche, eccetera, eccetera. SMS. Se iniziamo adesso ad assimilare alla lesione dolosa, volontaria, fisica, perché questa è la differenza della pena, un comportamento che ha a che vedere con le tecniche comunicative, io capisco, ma a questo punto diamo una virata generale al codice, che inizierebbe anche un po' a preoccuparmi. Tenga conto che lo stalking è un classico reato, come sa, che viene citato agli atti della separazione dei divorzi per chiedere la configurazione degli assegni divorzili, quindi io ci andrei un po' piano, vista la tendenza della litigiosità italiana. Comunque Onorato, la ringraziamo e con lei finiamo, ma domani siamo qui, domani siamo sempre qui, domani poi è una grandissima giornata. Sì, 2 giugno. La parata del 2 giugno. Sì, durante il 2 giugno. La parata del 2 giugno. È la fine di questa idea della monarchia. Ah, ecco. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. A domani. Domani, ciao. Alino, Alino, Giannino, Giannino, Alino, Alino, Giannino, Giannino, Alino, Alino, Giannino, go!